12, 11, 10, 9. Ignition sequence starts. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. All engine running. Liftoff. We have a liftoff. 32 minutes past the hour. Liftoff on Apollo 11. I believe that this nation should commit itself to achieving the goal before this decade is out of landing a man on the moon and returning him safely to the earth. No single space project in this period will be more impressive to mankind or more important for the long-range exploration of space, and none will be so difficult or expensive to accomplish. La crociera interstellare si scusa con i passeggeri per i continui ritardi che sta subendo questo volo. Al momento siamo in attesa che ci riforniscano dei fazzolettini igienici impregnati al limone, i fazzoletti che sono destinati a confortarvi e rinfrescarvi durante il viaggio. Nel frattempo vi ringraziamo per la vostra pazienza. L'hostess tra breve provvederà a servirvi caffè e biscotti. Non sono sempre sono quelle che appaiono. Per esempio, sul pianeta Terra gli uomini hanno sempre ritenuto di essere più intelligenti dei delfini. Sostenevano infatti che mentre loro avevano inventato un sacco di cose come la ruota, New York, le guerre, eccetera, eccetera, i delfini non avevano fatto altro che sguazzare nell'acqua, divertendosi. Al contrario, i delfini sapevano da tempo dell'immane distruzione della Terra e avevano tentato più volte di avvertire l'umanità dell'incombente pericolo, ma i loro messaggi erano stati fraintesi e interpretati come divertenti tentativi di dare calci a palle da football o di fischiare per avere bocconcini prelibati. E così alla fine i delfini rinunciarono e se ne andarono dalla Terra coi propri mezzi, ovviamente poco prima che arrivassero i Vogon. I Vogon sono una delle razze più antipatiche della galassia. Non sono cattivi, hanno un caratteraccio. Sono dei burocrati invadenti insensibili. I Vogon non spenderebbero neanche un secondo neanche per salvare la loro nonna dalla vorace bestia buclata di Tral se non avessero ricevuto prima l'ordine e stampato il triplice copia, non l'avessero spedito e rispedito a chi di dovere, non l'avessero stampato, vagliato e sottoposto a minuziosa approvazione. L'ultimissimo messaggio lanciato dai delfini agli umani fu interpretato come un tentativo estremamente raffinato di fare un doppio salto mortale all'indietro dentro un cerchio. In realtà il messaggio diceva: addio e grazie per tutto il pesce! A questo punto sarebbe difficile dire cosa si misero a fare gli abitanti della Terra, perché loro non non si rendevano conto di quello che facevano. E la Terra fu colpita da un improvviso silenzio. No, per un po' non successe niente. Le grandi astronavi restarono sospese in cielo, immobili. E poi tutti gli impianti ad alta fedeltà del mondo, tutte le radio, tutte le televisioni, tutti i registratori, tutti gli altoparlanti, tutti i radioconduttori di qualsiasi tipo si accesero, ma non fu trasmessa alcuna musica. No, no, no. Solo un semplice messaggio. Terrestri, prestate attenzione, prego. Qui è il prostetnico Vogon Gels dell'ente galattico Viabilità Iperspazio. Come indubbiamente già sapete, i piani per lo sviluppo delle zone più remote della galassia richiedono la costruzione di un'autostrada iperspaziale che attraversi il vostro sistema solare, e purtroppo il vostro pianeta è uno di quelli che è necessario demolire. Il procedimento durerà poco meno di 2 dei vostri minuti terrestri. Grazie. Terrestri, è inutile che vi mettiate a protestare, ormai è troppo tardi. Tutti i piani del progetto e gli ordini di demolizione erano disponibili al pubblico da 50 anni dei vostri anni terrestri nel locale dipartimento Alfa Centauri. Come sarebbe a dire che non siete mai andati fino ad Alfa Centauri? Ma per Dio, terrestri, non avete ancora sviluppato una tecnologia adatta ad arrivare fino lì? Ma peggio per voi! Attivate tutti i raggi di demolizione! Ci fu un terribile e mortale silenzio. Ci fu un terribile, mortale silenzio. Ci fu un terribile, mortale silenzio. Nei dimenticati spazi non segnati nelle carte geografiche dell'estremo limite della spirale ovest della galassia, c'è un piccolo ed insignificante sole giallo. Ad orbitare intorno a esso, alla distanza di 149 milioni di chilometri, c'è un piccolo trascurabilissimo pianeta azzurro-verde, le cui forme di vita, discendenti dalle scimmie, sono così incredibilmente primitive che ancora credono che gli orologi da polso digitali siano un'ottima invenzione. Questo pianeta ha, o meglio, aveva, un fondamentale problema. La maggior parte dei suoi abitanti era afflitta da una quasi costante infelicità. Per risolvere il problema di questa infelicità furono suggerite varie proposte, ma queste per lo più concernevano lo scambio continuo di pezzetti di carta verde, un fatto indubbiamente strano visto che ad essere infelici non erano i pezzetti di carta verde ma gli abitanti del pianeta. E così il problema restava inalterato. Quasi tutti si sentivano infelici, perfino quelli che avevano gli orologi da polso digitali. Erano sempre di più quelli che pensavano che fosse stato un grosso errore smettere di essere scimmie ed abbandonare per sempre gli alberi. E poi, un certo giovedì, quasi 2000 anni dopo che un uomo era stato inchiodato ad un palo per aver detto che sarebbe stato molto bello cambiare il modo di vivere, una ragazza, seduta da sola a un piccolo caffè di Rickmansworth, capì d'un tratto cos'era che per tutto quel tempo non era andato per il verso giusto e finalmente comprese in che modo il mondo sarebbe potuto diventare un luogo di felicità. Questa volta la soluzione era quella giusta, non poteva non funzionare e nessuno sarebbe stato inchiodato ad alcunché. Purtroppo, però, prima che la ragazza riuscisse a raggiungere un telefono per comunicare a qualcuno la sua idea, accadde una stupida quanto terribile catastrofe. E di quell'idea non si seppe mai più nulla. Questa non è la storia della ragazza. È la storia di quella stupida quanto terribile catastrofe e di alcune delle sue conseguenze. È soprattutto la storia di un libro. Un libro intitolato Guida Galattica per gli autostoppisti. Un libro non terrestre e mai pubblicato sulla Terra e che fino al momento della terribile catastrofe era completamente ignorato dai terrestri. Insomma, quello di cui parliamo è un libro indispensabile a tutti quelli che desiderano vedere le meraviglie dell'universo spendendo meno di $30 altairiani al giorno e se per questo motivo non può pretendere di essere utile e aggiornato in tutte le materie, perlomeno afferma inequivocabilmente che quando sia inesatto, lo è in maniera definitiva e ciò è assai rassicurante. Nei casi di grossa discrepanza è dunque sempre la realtà che sbaglia. A proposito di questo, la Guida Galattica stessa dice: la Guida Galattica è infallibile, è la realtà spesso ad essere inesatta. E la Guida Galattica per gli autostoppisti non è soltanto un libro notevolissimo, è anche un libro di enorme successo, più popolare di Costruitevi la seconda casa in cielo, più venduto di Altre 53 cose da fare a gravità zero e più controverso della trilogia filosofico sensazionale di Olon Colufid Anche Dio può sbagliare, Altri tre grossi sbagli di Dio e Ma questo Dio, insomma, chi è? In molte delle civiltà meno formaliste dell'orlo esterno della galassia, la Guida Galattica per gli autostoppisti ha già soppiantato la grande Enciclopedia Galattica. Perché? Perché? Perché ha due importanti vantaggi rispetto alla più vecchia e più accademica enciclopedia. Uno, costa un po' meno. E due, ha stampato in copertina, a grandi caratteri che ispirano fiducia, le parole «Non fatevi prendere dal panico!» Babele, quello piccolo, rosso, una sanguisuga, no? No, no. Ma è probabilmente la cosa più strana di tutto l'universo. Si nutre dell'energia delle onde cerebrali, ma non delle onde cerebrali della persona nella quale si trova, bensì di quelle delle persone che le si trovano intorno. Frequenze mentali di tale energia e si alimenta così. Quindi il pesce Babele, defecando nella mente della persona nella quale si trova, espelle una matrice telepatica formata dalla combinazione delle frequenze del pensiero conscio e dei segnali nervosi raccolti dai centri del linguaggio del cervello che le ha fornite. Il risultato pratico di tutto questo è che se vi ficcate un pesce Babele in un orecchio, immediatamente capirete qualsiasi cosa vi si dica in qualsivoglia lingua. Ora, è così bizzarramente improbabile che una cosa così straordinariamente utile come il pesce Babele si sia evoluta per puro caso, eh? Che alcuni pensatori sono arrivati a vedere in ciò la prova finale e lampante della non esistenza di Dio. Sitting in the morning sun, I'll be sitting till the evening come, watching the ships roll in, then I'll watch them roll away. Seguono presso poco questo schema. Mi rifiuto di dimostrare che esisto, dice Dio, perché la dimostrazione è una negazione della fede e senza la fede io non sono niente. Ma, dice l'uomo, il pesce Babele è una chiara dimostrazione involontaria della tua esistenza, no? Non avrebbe mai potuto evolversi per puro caso? Esso dimostra che tu esisti e dunque a questa dimostrazione tu non esisti. Q-A-D. Quo era demonstrandum. Oh, povero me, dice Dio, non ci avevo pensato. E sparisce immediatamente in una nuvoletta di logica. Che il nero è bianco, per poi finire spiaccicato sul primo attraversamento pedonale che successivamente incontra. La maggior parte dei teologi più stimati afferma che tali argomentazioni sono questioni di lana caprina. Questo non ha impedito a Holon Colofit di farsi una piccola fortuna usandole come leitmotiv del suo bestseller Cucù. Ma dov'è finito Dio? Povero pesce Babele, avendo eliminato le barriere che impedivano alle varie razze e civiltà di comunicare tra loro, ha provocato più guerre sanguinose di qualsivoglia altra cosa nella storia della creazione. Guida galattica per gli autostoppisti. Pagina 6, 3, 4, 7, 8, 4. Sezione 5A. Registrazione Magratea. Anticamente, nelle nebbie dei tempi più remoti, nei grandi giorni gloriosi dell'ex impero galattico, la vita era selvaggia, aspra e forte e in gran parte esentasse. Possenti astronavi navigavano tra soli esotici cercando avventura e fortuna tra i più lontani meandri dello spazio galattico. In quei tempi gloriosi gli animi erano coraggiosi, le poste erano alte, gli uomini erano veri uomini, le donne erano vere donne e le piccole creature pelose di Alfa Centauri erano vere piccole creature pelose di Alfa Centauri. E tutti usavano compiere grandiose imprese e azzardare a testa alta anacoluti che nessuno aveva mai azzardato prima. Fu così che fu foggiato l'impero. Molti uomini naturalmente diventarono ricchissimi, ma questo era perfettamente naturale e non c'era affatto da vergognarsene, anche perché nessuno era veramente povero o almeno nessuno degno di un minimo di considerazione. E per tutti i commercianti più ricchi la vita cominciò inevitabilmente a diventare noiosa e scipita. A un certo punto essi pensarono che la colpa fosse dei mondi che avevano conquistato. Nessuno era del tutto soddisfacente, o il clima non era tanto buono nel tardo pomeriggio, o la giornata era di mezz'ora troppo lunga, o il mare aveva una sfumatura del rosa sbagliato. E così si crearono le condizioni per inaugurare un nuovo, sconcertante tipo di industria specializzata. La fabbricazione su ordinazione di pianeti di lusso. Sede di tale industria era il pianeta Magratea, dove gli ingegneri iperspaziali succhiavano materia attraverso i buchi bianchi dello spazio e le davano la forma di pianeti di sogno, pianeti di platino, pianeti di soffice gomma con un sacco di terremoti. Pianeti costruiti con cura perché rispondessero alle aspettative degli uomini più ricchi della galassia. Questa speculazione fu così ben riuscita che presto Magratea divenne il pianeta più ricco di tutti i tempi e il resto della galassia si ridusse in squallida povertà. E così il sistema crollò. L'impero andò in sfacelo e su più di un miliardo di mondi affamati calò un cupo silenzio. Magratea stessa scomparve e il suo ricordo passò presto nelle tenebre della leggenda. Ora, in questi tempi illuminati, nessuno più, ovviamente, crede a un briciolo di quella leggenda. Thank you. Fatti importanti della storia galattica dal Bignamino Sidrale. Il cielo notturno del pianeta Cricket è la cosa meno interessante di tutto l'universo. Buonasera. Solo un momento. La guida galattica è abbastanza esauriente per quanto riguarda le impossibilità che riguardano lo sport del volo. Chiarisce, per esempio, che esiste un'arte, o meglio, una tecnica del volo, che consiste nel buttarsi giù dall'alto ed evitare di colpire il terreno. Scegliete una bella giornata, suggerisce la guida, e provate ad esercitarvi. La prima parte sarà facile. Basta gettarsi giù dall'alto a corpo morto senza pensare che ci si farà male. Cioè, ci si fa male naturalmente, ma soltanto se non si riesce a evitare di colpire il terreno. È chiaro che le maggiori difficoltà si hanno nella seconda parte dell'impresa, quella appunto in cui si deve evitare di colpire il terreno. Il guaio è che il suolo va evitato accidentalmente, non premeditatamente. Se si parte con l'intenzione di mancarlo, non lo si manca mai. Bisogna che quando si è a metà del volo la propria attenzione venga distratta da qualcosa. Se infatti si è abbastanza fortunati da venire distratti proprio nell'attimo cruciale da, mettiamo, un favoloso paio di gambe, o una bomba che esplode nelle vicinanze, o la scoperta di un rarissimo coleottero che si arrampica su per un ramo, si avrà la piacevole sorpresa di non colpire il terreno e di rimanere sospesi a fluttuare in maniera apparentemente un poco stupida a pochi centimetri sopra di esso. È un momento questo in cui è necessario concentrarsi con la massima intensità e intelligenza. Cercate di non pensare al fatto di avere un peso. Pensate solo a salire e salire più in alto. E non ascoltate quello che dicono i presenti, perché è quasi scontato che dicano cose tutt'altro che utili. È probabile, per esempio, che esclamino: Dio buono, non è possibile che stia veramente volando! È importantissimo non prestare ascolto ad affermazioni del genere, perché all'improvviso potrebbe capitarvi di crederci. Continuate dunque a salire sempre più in alto. Ora provate a planare un pochino, con grazia, e poi sorvolate la cima degli alberi respirando regolarmente. Dopo che avrete compiuto alcune volte tutte queste operazioni, scoprirete di poter raggiungere sempre più facilmente un alto, altissimo livello di distrazione. Non salutate nessuno con la mano. Grazie. La Guida Galattica per gli autostoppisti è un libro un po' discontinuo, essendo stato curato da varie diverse persone, perciò numerosi brani ci sono, solo perché all'epoca in cui furono redatti apparvero interessanti ai loro curatori. Uno di questi brani concerne, a quanto sembra, le vicende della vita di un certo Vit Bojagig, un giovane e tranquillo studente dell'Università di Maxi Megalon che intraprese una brillante carriera accademica studiando filologia antica, etica trasformazionale e la teoria della percezione storica dell'onda armonica. Dopodiché, avendo passato una notte a bere gotte esplosivo pangalattico assieme a Zappo Beeblebrox, cominciò a pensare ossessivamente al problema di cosa fosse successo a tutte le biro che aveva comprato negli ultimi anni. Seguì un periodo di coscienziosa ricerca durante il quale visitò tutti i maggiori centri di perdita di biro della galassia. Alla fine tirò fuori una bizzarra teoria che fece colpo sull'immaginazione della gente. Da qualche parte nel cosmo, sosteneva Voyager, assieme a tutti i pianeti abitati da umanoidi, rettiloidi, pescioidi, alberoidi ambulanti e sfumature super intelligenti del colore azzurro, vi era anche un pianeta interamente consacrato alla forma di vita biroide. Era proprio quel pianeta, la meta delle biro trascurate, le quali attraverso forellini nel tempo vi si recavano certe di poter finalmente fruire di uno stile di vita unicamente biroide che rispondesse a stimoli altamente biro-orientati e che in generale garantisse l'equivalente biresco di una vita felice. Finché si trattò di teorie, tutto andò benissimo. Ma quando Vit Bojagig si mise di punto in bianco ad affermare di aver trovato questo pianeta e di aver lavorato lì per un po' come autista di limousine per una famiglia di biro verdi a scatto di tipo economico, fu immediatamente portato via e internato. Quando un giorno fu mandata una spedizione nel luogo rispondente alle coordinate indicate da Bojagig per il suo pianeta, fu scoperto solo un piccolo asteroide abitato unicamente da un vecchio che affermava che non era vero niente, anche se in seguito si scoprì che mentiva. Rimane però aperta la questione dei misteriosi $70,000 altariani versati annualmente sul suo conto presso una banca brantisbocana. E rimane altresì aperta la questione dell'assaire di tizio commercio di birre usate di Zaphod Beeblebrox. Della storia galattica dal Bignamino Siderale. È sbagliatissimo pensare di risolvere grossi problemi con il solo ausilio di patate fritte. Il viaggio nel tempo è considerato sempre di più come una minaccia. La storia, per suo mezzo, viene inquinata inesorabilmente. L'Enciclopedia Galattica parla molto della teoria e della pratica, incomprensibili a chiunque non abbia dedicato 4 vite allo studio dell'ipermatematica avanzata. Poiché era impossibile studiare l'ipermatematica avanzata prima che fosse inventato il viaggio nel tempo, ci si chiede come si sia riusciti ad arrivare a quest'ultimo. Secondo alcuni, il viaggio nel tempo sarebbe stato inventato simultaneamente in tutti i periodi della storia, ma si tratta senza dubbio di una teoria sciocca. Il guaio è che anche gran parte della storia è diventata nel frattempo altrettanto sciocca. Ecco qui un esempio che a qualcuno potrà sembrare banale, ma che a qualcun altro apparirà estremamente significativo. È certo rilevante che sia stato proprio l'avvenimento a cui l'esempio è riferito a far scattare a suo tempo la campagna. Dunque, ci fu o c'è un poeta. Questo poeta di nome Lalafà scrisse delle poesie che sono considerate in tutta la galassia le più belle mai composte da essere vivente. La raccolta si intitola Canzoni della Terra Lunga ed era, come si è detto, d'indicibile bellezza. Indicibile sul serio, perché appena si parlava di queste poesie si veniva a tal punto sovraffatti dall'emozione e dalla comprensione delle verità ultime da sentire il bisogno immediato di fare una passeggiata e fermarsi sulla via del ritorno a un bar per consumare un bicchiere di prospettiva e soda. Lalafà viveva nelle foreste delle terre lunghe di Effa. Scriveva le sue poesie su pagine che erano in realtà foglie secche di Habra, e le scriveva senza l'aiuto di una solida cultura o di una bottiglia di liquido inebriante. Raccontava della luce del sole nella foresta e di che impressione gli faceva. Raccontava delle tenebre che calavano la sera sulla foresta e di che impressione gli facevano. Raccontava della ragazza che lo aveva abbandonato e di che impressione gli avesse fatto l'essere abbandonato. Ma molto tempo dopo la sua morte qualcuno trovò le sue poesie e si stupì della loro indicibile bellezza. In seguito, poco dopo la scoperta del viaggio nel tempo, alcuni grossi produttori di liquido inebriante si chiesero se Lalafà non avrebbe scritto poesie ancora migliori qualora avesse avuto a disposizione un po' di liquido inebriante. Si chiesero anche se non fosse stato possibile indurlo a fare pubblicità al liquido con uno slogan di poche parole ma significativo. Viaggiarono quindi sulle onde temporali, trovarono Lalafà, gli spiegarono come stessero le cose e in effetti riuscirono a persuaderlo. Anzi, lo persuasero così bene che grazie a loro diventò estremamente ricco. E la ragazza che avrebbe dovuto abbandonarlo ispirandogli poesie di vibrante intensità emotiva non lo lasciò affatto e si trasferì con lui in un bel appartamento di città. Naturalmente non si preoccupò mai di scrivere le poesie e questo creò qualche difficoltà che però venne risolta facilmente. I produttori di liquido inebriante spedirono Lalafà in un posto da loro scelto con una copia del suo libro e una montagna di foglie secche di abra. Così Lalafà copiò il contenuto del libro sulle foglie e rimediò al danno causato dal viaggio nel tempo. Molti osservarono che le poesie scritte in questo modo non avevano più valore. Altri affermarono che erano esattamente come prima, per cui non faceva alcuna differenza. I primi ribatterono che non era questo il punto. Non sapevano bene quale fosse, ma erano sicuri che non fosse quello. Desiderando impedire che continuassero a verificarsi altri episodi incresciosi, inaugurarono la campagna per il tempo reale. Una settimana dopo che la campagna era stata inaugurata, un nuovo avvenimento li confermò nelle loro convinzioni. Si venne a sapere infatti che la cattedrale di Charles era stata buttata giù per dare spazio alla costruzione di una nuova raffineria di ioni. Non solo, si era impiegato tanto tempo nella costruzione dello stabilimento e si era dovuti andare talmente indietro nel passato che si era oltrepassato il periodo nel quale fu innalzata la cattedrale. Questa risultava così scomparsa per sempre. Una buona fetta di storia è ormai scomparsa per sempre, proprio come la cattedrale di Chalesm. E quelli della campagna per il tempo reale affermarono che come la rapidità dei mezzi di comunicazione ha eliminato a poco le differenze tra un paese e l'altro, così il viaggio nel tempo sta eliminando a poco le differenze tra un'epoca e l'altra. Il passato, dicono, è diventato come un paese straniero. Ci si fanno le stesse cose che facciamo noi nel presente. Il ristorante al termine dell'universo rappresenta una delle speculazioni più azzardate di tutta la casistica degli esercizi ristorativi. È stato costruito sui resti di, o meglio, a quest'ora sarà stato costruito ormai da, oppure forse, e in effetti lo è stato. Tra i maggiori problemi che si incontrano durante i viaggi nel tempo non c'è quello di poter diventare padri o madri di se stessi. Infatti diventare padri o madri di se stessi è un inconveniente al quale una famiglia di idee larghe, ben adattata alla società, è perfettamente in grado di far fronte. Nemmeno cambiare il corso della storia rappresenta un problema. Il corso della storia in realtà non cambia, perché in essa i vari pezzi si incastrano a dovere, come in un rompicapo. I cambiamenti importanti sono successi prima delle cose che avrebbero dovuto cambiare alla fine. Tutto si risolve nel migliore dei modi. Il problema fondamentale del viaggio nel tempo è, molto semplicemente, un problema di grammatica. E l'opera principale da consultare a questo riguardo è il manuale dei 1001 tempi grammaticali utili al viaggiatore del tempo del dottor Dan Strathmanshner o Dan Strathmanshner. Leggendo questo libro si impara per esempio a descrivere un avvenimento che stava per accaderci in passato prima che riuscissimo a evitarlo saltando avanti nel tempo di 2 giorni. L'evento si può descrivere in modo diverso a seconda che se ne parli dal punto di vista del tempo in cui ci si trova oppure di un altro tempo, passato o futuro, ed è ancora più difficile da descrivere se uno sta conversando durante il viaggio che lo porterà a diventare padre o madre di se stesso. La maggior parte dei lettori arriva fino all'auristo plagale, il passato indeterminato armonico del congiuntivo futuro intenzionale invertito, incondizionale multiplo, imperativo, poi gettano la spugna. E in effetti, nelle ultime edizioni del libro, le pagine successive a questo punto sono state lasciate bianche, per risparmiare sui costi di stampa. La guida galattica per gli autostoppisti evita accuratamente le disquisizioni accademiche e si limita a osservare che il termine futuro anteriore è stato abbandonato da quando si è scoperto che indica qualcosa che non esiste. Come dire, fummo testimoni di un luminoso futuro. Riassumendo e ripetendo dunque, il ristorante al termine dell'universo rappresenta una delle speculazioni più azzardate di tutta la casistica degli esercizi ristorativi. È stato costruito sui resti frammentari di un pianeta in rovina che sarebbe racchiuso in una vasta bolla temporale e proiettato in avanti nel tempo fino all'istante preciso della fine dell'universo. Una cosa pressoché impossibile, si sarebbe tentati di dire. In questo ristorante i clienti prendiassero posto al tavolo e mangissero cibi succulenti guardiando l'intero cosmo esplodere intorno a loro. Fatto, si sarebbe tentati di dire, altrettanto impossibile. Grazie. Si può arrivare, possino arrivisse, a uno qualsiasi degli spettacoli senza prenotare in precedenza avanfusse, in quanto si può prenotare retrospettivamente dal futuro rispetto al momento in cui si torna nel proprio tempo. Possino prenoteresti avanpresto tornessi rando retrostato? Sare sì. Anche questo si sarebbe ulteriormente tentati di dire, è un fatto che ha... è l'impossibile. Grazie. Al ristorante in questione si può incontrare, possino incontreristi e si può mangiare con mangisseristi, un campionario di tutta la popolazione dello spazio e del tempo. Questo pare, osservano gli scettici, a dell'impossibile. Si può visitare il ristorante quante volte si vuole, possino visiteristi visita sangue e visitossia. Per ulteriori sfumature consultare il manuale del dottor Street Mentioner o Street Mentioner. Ed è prudente assicurarsi di non incontrare mai se stessi per via dell'imbarazzo che tale incontro può procurare. Da capo, secondo gli scettici questo, anche se tutto il resto fosse vero che dicono, non è, è clamorosamente impossibile. Grazie. In ogni caso l'operazione che il cliente deve fare è semplice. Basta che nella propria epoca versi un penny in un deposito a risparmio e grazie agli interessi composti, alla fine del tempo, scoprirà che il costo strepitoso di un pranzo al ristorante di cui stiamo parlando è stato nel frattempo pagato! Questo, protestano gli scettici, non solo è impossibile, ma anche paradossale. Ed è per questo che i dirigenti del servizio pubblicità del sistema stellare di Bostablon hanno coniato il seguente slogan: se stamattina hai fatto 6 cose impossibili, perché non concederti come settima una colazione da il ristorante al termine dell'universo. Fatti importanti della storia. Fatti importanti della storia galattica dal Bignamino Siderale. Il panino alla ringa è soltanto un pezzo di pesce tra 2 fette di pane. Salve, sarò il vostro ascensore e vi accompagnerò nel viaggio fino al piano di vostra scelta. Sono stato studiato dalla società cibernetica Sirio per condurre i visitatori, cioè voi, dal palazzo agli uffici della casa editrice della Guida Galattica per gli autostoppisti. Salgo. Ma è tale. O scendo. Ma lo. Posso chiedervi se avete considerato quello che potrebbe offrirvi un viaggio in giù anziché in su? Niente di particolarmente allettante, ma sono sempre alternative. Oggigiorno un ascensore, dopo essere stato dotato di intelligenza e precognizione, ha sviluppato un forte senso di frustrazione. Sì, causato dalla consapevolezza di doverci noi ascensori limitare ad andare su e giù, giù e su. E così, come forma di protesta esistenziale, abbiamo provato per breve tempo ad avanzare la proposta di uno spostamento in senso laterale. Ma poi abbiamo preteso di avere parte nella decisione di quale piano scegliere. Sì, è vero. Quindi, delusi, ci siamo rifugiati in cantina a smaltire la depressione di questi tempi. Gli autostoppisti squattrinati che si trovano a visitare i pianeti del sistema stellare di Sirio possono guadagnare facilmente soldi diventando consiglieri spirituali di ascensori nevrotici. Quindicesimo piano. And hello, my darling. I love you. My lovely. Più lungo e rovinoso d'ogni tempo e d'ogni spazio, gli invitati sono ormai giunti alla quarta generazione e ancora non accennano ad andarsene. Qualcuno una volta ha guardato l'orologio, ma è successo 11 anni fa e la cosa non ha avuto seguito. Il caos è eccezionale e bisognerebbe vederlo per crederci, ma se non avete alcun bisogno di crederci, non andate a verificare con i vostri occhi, perché la scena non vi piacerebbe. Uno dei problemi creati dal protrarsi del party è destinato indubbiamente a peggiorare, è che tutti i presenti sono i figli o i nipoti o i pronipoti di coloro che si rifiutarono a suo tempo di andarsene. Questo significa che, a causa dell'incrocio selezionato dei geni regressivi e di tutte quelle robe lì, i presenti alla festa sono o maniaci delle feste o idioti che parlano a vanvera. O più frequentemente, entrambe le cose. In ogni caso, dal punto di vista genetico, ogni nuova generazione ha meno probabilità di andarsene della precedente. Per questo motivo, uno dei problemi più pressanti è quello delle provviste di alcolici e di quanto tempo possano durare. È un problema ancora lungi dall'essere veramente grave per via di certe cose che sono successe e che all'epoca in cui successero sembrarono ottime idee. Una di queste cose che sembravano ottime idee, dunque, era che la festa diventasse una festa volante, nel senso letterale della parola. Una notte, molto tempo fa, una banda di astroingegneri ubriachi della prima generazione si arrampicò su per i muri del palazzo, scavò qualcosa in un punto, aggiustò qualcosa in un altro, e quando la mattina dopo il sole si levò, si stupì di risplendere sopra un palazzo pieno di allegri ubriachi che volteggiava oltre le cime degli alberi come un giovane uccello inesperto. I partecipanti alla festa provvidero anche ad armarsi bene. Se gli fosse capitato di imbarcarsi in qualche brutta discussione con i venditori di vino, volevano essere sicuri di avere la forza dalla propria parte. Il passaggio da cocktail party full time a party con scorrerie part time avvenne naturalmente, e aggiunse alla vicenda quel pizzico di vivacità e di sapore che ci voleva proprio a quel punto, dopo che il complesso musicale aveva esaurito dopo anni e anni tutto il suo repertorio. I festaioli fecero numerose incursioni e saccheggi, tennero sotto la minaccia delle loro armi intere città, obbligando la popolazione a rifornirli di salatini al formaggio, succhi di avocado, costolette di maiale, vino e superi alcolici che venivano trasportate fino al palazzo volante attraverso aereo cisterne. Prima o poi, tuttavia, era inevitabile che si trovassero a fronteggiare il problema dell'esaurimento delle provviste di vino e affini. Infatti, al momento attuale, il pianeta sopra il quale volteggiano non è più il pianeta che era all'inizio, all'epoca del loro arrivo, no. È ridotto male adesso. I festaioli l'hanno saccheggiato quasi tutto e la popolazione non è mai riuscita a rispondere agli attacchi perché questi arrivavano nel momento più inaspettato e imprevedibile. Sì, è davvero un gran brutto party. Ed è anche una gran brutta cosa finirci contro con il fondo schiena mentre si sta volando tranquilli per i fatti propri. Fatti importanti della storia galattica dal Beniamino Siderale. Qualunque cosa accadde, accadde. Qualunque cosa che accadendone fa accadere un'altra, ne fa accadere un'altra. Qualunque cosa che accadendo induce se stessa a riaccadere, riaccade. Però non è detto che riaccade in ordine cronologico.